Il 29 aprile 1917 moriva in un combattimento aereo nel cielo di Macedonia, nel settore di Salonicco, l'ufficiale osservatore tenente di artiglieria Vittorio Cadel. Aveva 33 anni ed era nato a Fanna, presso Maniago. Dopo aver frequentato le scuole elementari, trascorse in paese gli anni della fanciullezza, attendendo alle occupazioni di casa e di campagna. Sentiva già in questo periodo l'istinto dell'artista, e senza conoscere la metrica, scriveva i primi versi. Digiuno di ogni conoscenza del disegno, dipingeva un po' dovunque. Sognava ardentemente di dedicarsi all'arte, ma tale suo sogno trovava forte opposizione. Con la sua costanza e volontà riuscì però a superare ogni ostacolo. La produzione pittorica del Cadel è copiosa e svariata, perché va dalla figura al ritratto, dal paesaggio alla decorazione. Per dare una misura della statura di Cadel pittore, basta ricordare che i quadri esistenti nella Pinacoteca del Castello di Udine raggiungono il cospicuo numero di 114, senza gli altri sparsi nei vari paesi dei dintorni di Maniago, di Spilimbergo e quelli lasciati a Roma, a Venezia, a Chivasso, a Torino e altrove, e senza contare i disegni che sono altrettanti. Ma ciò che di Vittorio Cadel oggi di più ci interessa è la produzione poetica, la quale è dominata da tre sentimenti fondamentali che si estrinsecano in tre gruppi di poesie: la gioia di vivere, la nostalgia e la delusione amorosa. Fa da sfondo a questi sentimenti la natura nelle sue manifestazioni più intime e particolari. Sembra anzi che l'unico personaggio vivente e operante sia la natura nella poetica di Cadel, che, ben a ragione, viene considerato fra i più validi poeti del primo Novecento, assieme a Bonini, Fruch, Corvat e Nardini. Una voce freschissima, originale, possiede questo sereno scrittore, ora sentimentale, ora arguto, felice nelle espressioni e sempre sincerissimo. «Fueis di Leria, foglie d'edera», si intitola il suo volumetto di versi espressi nella dolce parlata del maniaghese, e che vennero alla luce nella prima edizione del 1908 e quindi ristampati nel 1929. Con la terza ampliata edizione di 6 anni or sono, contenente anche la riproduzione di molte opere pittoriche e di delicati disegni del poeta pittore, l'amministrazione comunale di Fanna volle in tal modo onorare a 50 anni dalla morte il suo valoroso cittadino, che subito si presenta a voi, cari emigrati, in questo suo autoritratto. Il mio ritratto. I soi piuttosto bassut come statura, ma senza gobis, dret come un fusiel. Na soi né biond né moru par natura, ma di un color calzada bastardel. La boccia e il nas, taias giusta misura, e il ciuf na quarta lung sot dal chiapiel. Tal chiacarà, tal fa, tal andatura, io na mi stialdi e stoi benon parchel. Doi voi tale qual la limadura, just, vanitous, sincer, dispetosel, bon una volta sola e finca dura. Dure ostinat al doppio d'un chiarniel, appassionat a muarda la pittura, innamorat di duce calebiel. Nella poesia Il Ragn, la parlata è quella udinese, c'è un richiamo alla poesia leopardiana del passero solitario. Il poeta confronta il suo destino con quello del ragno. Leopardi lo aveva confrontato con quello del passero. I sogni fantastici e le illusioni della giovinezza svaniscono inevitabilmente di fronte alla realtà della vita, come per il ragno scompare in un attimo la tela portata lontano da un soffio di vento. Il ragn. La sotticops al traf, dulà che all'era il nid de sisilutis che sti sta, ue di mattine un ragn de sede sodarin slunghianti il glagn alattie sud la tele. Disgraziat. La puere besteute a pendolon di un fil sutil, sutil, sutil sta pensierose e i par che dut lei mal. Io ti capis puer ragn ie propri dure durone d'ingloti, ma sinfi mio lucrodis tu che anche io un evore di volti suoi tiesù, pal mio bielsium, la tele di vilut, cui fide fantasie. ovevi dentro il cur une miniere di fotti scolor d'aur, ovevi un gran tesaur. Ma la telet un lamp, ecco si sfante. Ragnut, il tuo destin, so me che il dal poete. Nasuz cula disdete, di bant tu ti esis tu, di bant lui chiante. Nei versi dedicati alla madre, notissimi già a tanti di voi, dopo aver espresso con mirabili parole l'amor filiale, conclude con una nota malinconica che passa gradatamente alla tristezza. Ame Mari. Mama, il tuo nome agliempla tutto il cor d'una dolcezza e d'una soavità che in tal clamati a par camanti il flat, a par da nove vos pal nostri amor. Mama, il tuo nome al il profondo un flor, tu e tu varissi il mal con ciò bussat, tu e tu varissi il cor sale malat, mama, femmina santa dal Signor. Quand il soreli a sera al va dormi de vori arbui, il mio pensier currint al torno, oh mamma, ai miei riguardi d'un dì. Il timpal passa, e su di noi al singruma, ma il cor arresta giovin, e io ti sinta chiantu c'hai chiamò sulla mecuna. Fresca e genuina, di un verismo schiettamente paesano, è la poesia che ascolterete ora e considerata dai critici moderni una delle più belle composizioni di Cadell. Matinada. Planca planc acrica l'alba sulli cimis da limons e la luna blanchia blanchia assiplata la iu in fons. Li stilutis cidinutis assondutis di studadis e la voce d'una ciampana assispan par li valadis. Tal paese la gente polsa tala pas dalla mattina, pai fossai d'ogni alla strada laga sporchia a corcidina. Ogni tant devor li chiasis qualchi gial callupaldi al si sgorla quatricimis e poi al fai chichirichi. Una riuta freschia freschia, una riuta imbalsamada a vensù dalla taviela e a misborfa di rosada, d'un profum calzà di viola, di mintuccia e di pantan, d'un odor di chiera mola, di basili e di ledan. Chista pas, chista poesia, a mi empla tutto il cor, d'un content, d'un'allegria, che mi ingroppa il glottidor. Tutto un trat, al wic un clostri, giù pal bord dal visinal, e una vecchia sbarlufida a disueita l'urinal. Una giovine in carpeta, aven forse un paol, chantu chant, na canzonetta, c'una voce da rosignol. Da devor dali montagnis, il soreli bielievat, alla bussa sulla boccia, proprio in quel catira il flat. Ricchi di un sottofondo nostalgico, questi versi che rievocano il suono delle campane che squillano a distesa e chiamano il bambino da lontano. Quel biel timp. A par di no si dis, ma porco can, a si diventa vecchius, senza storis. E il timp che era in canais, biel timp lontan, al torna viv tal cor, pali memoris. A mi parier, chi cu la schese in man, i gevi come un trotul parangoris alla Madonna, e in ribis, da lontan sintint che chiampanutis, i gevi in gloris. Ah, chiampanis, come li riguardi, chiantant, ridint in coru, a mi disevin, ven iu cun no, ven iu, ca iu cun no. A mi par, da iesi uvinci a mo, e li guardi, e li busi col cor, e l'ora mi clamin a plena voce, ven iu, ca iu cun no. Effusione schietta di sentimenti in questa poesia che potremmo definire anche dichiarazione d'amore. La balconella. Dal mio paese è una balconella con una ghirlanda a tor di gelsumin, di fueis di leria e flors di campanella, e drenti al bat cal sclopa un curisin, e drenti un voli a luz come una stela tra il vas di menta e quel da lamurin. E drenti a sta, che bambinuta biela, che mi ha robat la pas dal mio distin. I vuoi preodi d'ogna nastialuta, i vuoi vigni di not fin su che piera, par metti sul mio cor la tua manuta, par diti chi par te io so i vignut, sol par bussati voi di mora nera, e la buciuta che somea vilut. A merta il paradisi, par da bon tomari, avete fat cusi ninina, cum par di voi pineris dal chiarvon e na bucciuta freschia e mulisina. Io, i vorresti esi di stumon paron, par mettiti su un trono, muritina, e par podè butami in genoglon e adorati come una regina. Io i vorresti parari a cui ucei, par rincurata al cielo un mac di stelis e fati na ghirlanda tai chiavei. E fati na ghirlanda di busadis a torli tomanutis cussi bielis, chi a consolami a parin destinadis. Concludiamo il nostro modesto ma affettuoso omaggio a Vittorio Cadell con un addio a quanto si è amato e sofferto. Bussimi. Bussimi, Nina, chi domanti lassi, e i ueggi via palmont a fa fortuna. Bussimi. E là sal manco chi mi pasci dai ciobusas, sot stubi il clar di luna. Poiti, su chi stu cor chi tanti ama, poiti, dogna Lorela che ti clama. Bussimi, u chi inchiamò una volta.